voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Caffè Verniano, una storia di torrefazione lunga oltre 130 anni, di Adriano Palazzolo. La storia che vi raccontiamo oggi è quella della più antica azienda produttrice di caffè a livello nazionale tra le grandi torrefazioni. Nasce 134 anni fa a Chieri, in Piemonte, tra le colline torinesi e le ultime propaggini del Monferrato. Qui, nel 1882, Domenico Verniano apre una piccola drogheria, che nel corso degli anni si trasformerà in Caffè Verniano, la sesta azienda italiana nel canale della grande distribuzione. Cosa succede dopo l'apertura di quella bottega nella provincia torinese? Ce lo racconta Carolina Verniano, rappresentante della quarta generazione della famiglia oggi alla guida dell'azienda. Era una piccola drogheria, vendevano non soltanto caffè, ma altri prodotti alimentari, perché non avrebbe potuto sussistere un business soltanto di caffè nell'epoca della fondazione. E questo Domenico era un po' un visionario, un po' un genio, veniva da una famiglia di agricoltori, persone molto semplici ma molto colte, e lui aveva pensato di farsi regalare un carretto con le ruote di gomma per poter andare un po' più veloce, e raccoglieva tutti i frutti delle cascine della zona del Torinese per andarle a vendere al mercato di Torino. Questo è diventato da un piccolo business di una persona sola, in realtà poi questa cosa si è ingrandita e ha iniziato a introdurre anche la vendita di caffè. È diventato uno dei primi che comprava il caffè direttamente quando arrivava nei porti, quindi in realtà da un piccolo carretto di gomma nelle colline torinesi ha invece uno smercio di prodotti alimentari in grande. La lungimiranza di Domenico porta la sua piccola bottega a crescere. Gli affari vanno bene e lo smercio di prodotti di varia natura porta all'apertura di ben 3 magazzini. Oltre a quella di Chieri, nascono 2 botteghe a Torino e ad Alba. A dare una mano nel lavoro di tutti i giorni arriva la seconda generazione della famiglia, ma il contesto storico non è dei più favorevoli. Siamo nel periodo delle 2 guerre mondiali. Noi abbiamo avuto un passaggio in cui c'è stata la seconda generazione, che è stata la generazione di nonno Enrico, che aveva non soltanto questa azienda, quindi non portava solo avanti questa azienda insieme ai suoi fratelli, ma anche tante altre attività. E la diversificazione è stata fatta proprio nel periodo della guerra per evitare di mettere tutto soltanto in una singola attività. L'attività è parzialmente continuata, continuava a essere uno smercio di prodotti alimentari, ovviamente molto rallentata. Rallentata un po' dal contesto, e infatti si sono poi sviluppate nel contempo altre attività, l'attività dei legnami, l'attività della tessitura, quindi altre attività magari in quegli anni hanno preso più piede, invece il caffè e lo smercio di prodotti alimentari è un po' rallentato. In questi anni c'è stato anche l'acquisto di una piantagione in Kenya per approvvigionarsi direttamente di materie prime, poi purtroppo la piantagione in Kenya è andata distrutta durante la rivoluzione dei Mau Mau, quindi questa acquistare direttamente nella piantagione in realtà è stata una cosa che poi non abbiamo proseguito. La specializzazione nel caffè arriva con gli anni 70. A prendere in mano l'azienda è la terza generazione dei Verniano, rappresentata da Franco e Carlo, padre e zio di Carolina Verniano, voce narrante di questa storia. La famiglia decide di puntare esclusivamente sulla torrefazione, spostandosi a Santena, comune a 10 km da Chieri, dove oggi l'azienda ha 2 stabilimenti, con più di 24 linee di produzione per macinato, grani, lattine e capsule. Iniziamo a vendere prima in un'area più vicina, più ristretta, per poi diventare invece su scala nazionale, e non soltanto attraverso il canale bar, ma anche attraverso il canale supermercati. Quindi negli anni 80 la Caffè Verniano, da azienda locale, regionale, diventa un'azienda su scala nazionale. Questo è stato fatto grazie a tanti investimenti pubblicitari, perché fin da subito, anche quando l'azienda era di dimensioni abbastanza piccole, si è creduto che farsi conoscere, iniziare a far ricordare il marchio Caffè Verniano, che non è di facile pronuncia, perché ricordare il cognome Verniano, che è anche il brand dell'azienda, è un po' difficoltoso, e quindi si è da subito pensato che investire in comunicazione fosse uno degli asset più importanti per la crescita aziendale. Poi è arrivata la quarta generazione, rappresentata dalla sottoscritta, l'ultima entrata in azienda. Invece il primo a entrare in azienda è stato mio fratello Enrico, che attualmente si occupa del settore bar Italia. Successivamente il mio cugino Pietro, che si occupa invece di tutti gli stabilimenti di produzione e dell'acquisizione delle materie prime insieme al papà Carlo. La famiglia Vergnano, composta dunque da due nuclei che lavorano assieme in azienda, porta il marchio Caffè Vergnano a una crescita esponenziale, che vede un vero e proprio boom negli anni 2000 grazie a un'intuizione ben precisa, che però creerà anche non pochi problemi. La grande rivoluzione, quella che noi chiamiamo rivoluzione, in realtà è stato un boom di crescita per l'azienda, è stato il 2011, anno in cui noi abbiamo lanciato nel mercato italiano la prima capsula compatibile con le macchine Nespresso nel mercato. Nel 2011, oggi se ne parla, ci sono su tutti gli scaffali, nel 2011 era una grande novità, ma anche un po' una sfida, perché si parlava di brevetti, si parlava di tante cose, c'era un clima di incertezza, quindi siamo stati molto coraggiosi nel farlo. Il mercato ci ha dato ragione, oggi siamo leader di mercato nel segmento delle compatibili e questo ha permesso all'azienda di crescere di più di 10 milioni di euro di fatturato soltanto con una singola linea di prodotto e ovviamente presentarsi in maniera più evidente sui mercati con uno spazio scaffale più ampio e ovviamente più visibilità. La mossa di Caffè Vergnano ovviamente non passa inosservata al diretto concorrente, proprietario del marchio Nespresso. A febbraio del 2012, un procedimento d'urgenza costringe l'azienda a difendersi dalle accuse di violazione dei brevetti, contraffazione e uso illegittimo del marchio. È noto che c'è stata una sfida legale con Nestlé, che ovviamente per un'azienda piccola come noi, dall'altra parte invece una grande multinazionale, è stato sicuramente un momento che noi abbiamo definito un momento di crisi. In realtà da ogni crisi ci si risolleva accettando una nuova sfida, e per noi è esattamente stata questa la situazione. Per noi è stata l'opportunità di entrare in un segmento e con uno spazio nel mercato che noi non avevamo prima. Però per ottenere delle cose grandi ovviamente bisogna superare degli ostacoli, e per noi è stato sicuramente un ostacolo, tanto anche a livello personale, perché comunque noi siamo una piccola azienda familiare. Affrontare un grande colosso è stato sicuramente un momento un po' di agitazione all'interno dell'azienda. Il tribunale respinge tutti gli addebiti della Nestlé, con l'obbligo per Caffè Vergnano, puntualmente eseguito, di rimuovere ogni esplicito riferimento diretto al marchio concorrente. Ma questa controversia legale non è stata l'unico momento difficile per l'azienda. Vivendo di un prodotto naturale, quindi un prodotto soggetto anche a variazioni di prezzo, tutti i momenti in cui il costo della materia prima sale, magari inaspettatamente, magari in maniera molto veloce, sicuramente sono dei momenti di difficoltà, perché è difficile ritoccare gli listini con gli stessi tempi, è un po' difficile adattarsi alla fluttuazione della materia prima. Quindi noi siamo un po' vincolati da questo prezzo della materia prima, che nei momenti più favorevoli ci permette di avere un po' più di respiro, invece nei momenti in più in cui sale molto velocemente ovviamente ci sono dei momenti di tensione. Oggi siamo riusciti a superarli con grande flessibilità. Questo è un po' quello che ci contraddistingue, noi siamo veloci nel cambiare strategie, nel prendere decisioni che si adattino un po' alle contingenze del mercato. Quindi piccole crisi, e da queste piccole crisi sono sempre nate delle opportunità. Grazie al progetto Espresso 1882, Caffè Vergnano ha consolidato la sua posizione di leader italiano nel segmento delle capsule compatibili, che in termini di fatturato per l'azienda equivale a quasi 10 milioni di euro. Un'idea, quella delle capsule, in cui la famiglia ha creduto fortemente nel momento in cui si è deciso di investire. Ci è stato proposto questo progetto e poi un po' si è sviluppato proprio all'interno un po' della famiglia. Noi ci siamo chiesti, e questo è stato un po' il momento clou in quegli anni, nel 2009 direi, ci siamo chiesti come sarà il consumo del futuro. Quindi noi cerchiamo sempre di guardare avanti e farci una domanda: come saremo fra 20 anni, come berremo il caffè a lungo termine. E da questa domanda è nata un po' la risposta di dire: ma sicuramente la capsula di Nespresso è il sistema più diffuso nel mercato. Quindi abbiamo cercato di fare una capsula compatibile che si adeguasse al parco macchine più diffuso e presente nel mercato, proprio per diventare ancora più internazionale e ancora più per tutti. Quindi in realtà un po' tutto studiato da noi, che è stato un costo molto alto in termini di risorse, tempo e ovviamente anche denaro, perché è stata la costruzione di un intero stabilimento di produzione con delle linee di produzione dedicate e anche un po' customizzate, perché le linee di produzione in realtà non erano sul mercato, ma ce le siamo un po' costruite ad immagine della nostra capsula. L'azienda ha chiuso il 2015 con un fatturato di oltre 75 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto all'anno precedente. Impiega oltre 130 dipendenti ed è presente all'estero con più di 70 locali. L'export pesa per il 25% sul fatturato ed è diretto a ben 80 paesi. Un mercato però, come spiega Carolina Vergnano, voce narrante di questa storia, in cui si può fare di più. Noi esportiamo in 80 paesi, siamo partiti forse un po' più tardi rispetto ai nostri grandi competitor, se possiamo definire l'Italia, in realtà sono i colossi italiani, quindi forse abbiamo peccato un pochino di lentezza nell'avvio. Ma oggi lo facciamo cercando di essere il più veloci e aggressivi possibile, perché crediamo che sia anche un po' una missione, oltre che una banale vendita di caffè. Portare la cultura dell'espresso italiano è qualcosa che va oltre il vendere dei chicchi di caffè. Quindi poi in realtà io me ne occupo direttamente, quindi è uno dei progetti a cui credo di più. Oggi stiamo aprendo tanti nuovi mercati, abbiamo anche inaugurato un po' un dipartimento marketing estero per essere anche a livello di immagine più presenti all'interno dei mercati in cui vendiamo il caffè, perché non è solo quello che bevo al bar, ma è ricreare quello stesso rito che oggi è così diffuso in Italia. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.